E sulle note degli stornelli d'esilio di Pietro Gori, un canto anarchico del 1895, torniamo insieme qui a Radical Pop per parlare di un libro che, come dire, ha un titolo simile a un verso di questa canzone. La tua patria è il mondo intero, è il libro edito dalla Terza e scritto da Lorenzo Marsilli, che è al telefono con noi. E saluto, buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Allora, ti sei ispirato, immagino, davvero a Pietro Gori? Beh, assolutamente. Diciamo, l'Italia ha un patrimonio di internazionalismo che soprattutto in questo momento di sovranismo scemo è importante recuperare, e la trasformazione della nostra patria, la nostra patria nella tua patria del mondo intero, sta a segnalare che oggi tale è l'interdipendenza globale raggiunta, che volenti o nolenti la patria di tutti quanti, non soltanto di una parte, è veramente il mondo intero. Ecco, il tuo libro verrà presentato questo pomeriggio proprio a Bologna, in Strada Maggiore 45, in un incontro in cui sarai presente insieme a Romano Prodi e Caterina Di Fazio, e siamo a pochissimi giorni dalle elezioni europee, quindi il tema di cui ti sei occupato, come già anticipavi, è centralissimo nel dibattito pubblico non solo italiano ma europeo. Si contrappone l'idea di, appunto, sovranismo, così viene definito, ma in realtà sarebbe più appropriato chiamarlo nazionalismo, almeno per come viene inteso dai media mainstream e dalle forze di destra, all'internazionalismo. Nel tuo libro tu fai una proposta che va oltre e, diciamo, puntualizza anche alcune cose. Sì, io mi sono fatto intanto questa idea che la risorgenza nazionalista di questi anni sia in realtà il sintomo della decadenza e della fine dello Stato-nazione come soggetto storico, ossia precisamente l'impotenza della politica nazionale di governare le grandi sfide del futuro, che siano quella ambientale, quella tecnologica, quella migratoria, quella dei capitali finanziari. Questa incapacità di governare queste sfide porta a un rinculo nazionalista, un po' come un cane piccolo, indebolito, che abbaia e fa la voce grossa perché in realtà ha paura. Io credo che scavando a fondo della risorgenza nazionalista, del Salvini che tiene la Madonnina in piazza a Milano, ciò che si trova è questo: impotenza, una drammatica impotenza della politica nazionale. E quindi immaginare invece uno spazio cosmopolitico, se volete, una capacità di proiezione politica oltre i confini materiali e mentali dello Stato nazionale è ciò che ci può far riprendere il controllo, per usare lo slogan della Brexit, ciò che ci può far riprendere sovranità, ciò che può restituire potenza e capacità e anche utopia forse al pensiero politico. Questo richiede chiaramente una trasformazione dei nostri modelli organizzativi: servono partiti europei, servono sindacati europei, servono piazze e movimenti europei, ma è qualcosa che sta accadendo sotto i nostri occhi. Io penso, e chiudo, che i ragazzi che venerdì di questa settimana torneranno a scioperare in tutto il mondo per il clima rappresentano precisamente quella comprensione delle grandi sfide planetarie, dell'interdipendenza planetaria che abbiamo di fronte, che sempre più avremo bisogno per comprendere e guidare il futuro. I ragazzi in questo periodo storico sono molto più maturi delle persone anziane, senz'altro di chi guida il nostro paese. Ecco, nelle premesse, insomma, nel tuo libro, nella tua analisi, sottolinei che l'Europa non è più al centro del mondo, no? Come magari è stata in passato, quindi parli di un tramonto dell'Europa universale. Assolutamente, questa provincializzazione, diciamo, dei nostri paesi è sentita in particolar modo dall'Occidente, che naturalmente fino a pochi decenni fa era il Deus ex machina del mondo, controllandolo direttamente con il colonialismo prima, indirettamente con il capitalismo finanziario e il neoliberismo dopo. Questo dominio dell'Occidente si trova di colpo non soltanto sfidato, ma effettivamente sconfitto. La Cina è l'esempio forse primario, e la guerra non a caso commerciale di questi giorni fra Cina e Stati Uniti è l'esempio di questa messa all'angolo dell'Occidente. All'interno di questo di questa provincializzazione alcuni paesi come l'Italia sperimentano in maniera ancora più forte questo processo. L'Italia era uno dei paesi più importanti al mondo, ottava economia mondiale, membro del G8, e si trova oggi a status di paese periferico, con l'economia messa sotto attacco dai flussi di speculazione internazionale, una politica nazionale che sembra incapace anche di tappare una buca a Roma, meno che mai di trasformare un sistema capitalista completamente fuori da ogni senno. E quindi questa provincializzazione, questo tramonto della nostra potenza, fra virgolette, va anche questo a creare la rabbia, il malcontento, il rinculo nazionalista che troviamo oggi. Per uscirne abbiamo bisogno di guardare alto, e qui l'Europa, siccome si va verso le elezioni europee, può essere senz'altro un grandissimo grimaldello di trasformazione sistemica. Io credo che l'Europa possa essere lo strumento che noi abbiamo per mettere sotto scacco e trasformare un capitalismo neoliberale che oramai è generatore esclusivamente di malessere e di diseguaglianza. L'Europa può essere il nome di questa utopia possibile. Ecco, giusto una settimana fa qui da queste frequenze abbiamo intervistato il professor Carlo Galli, che è appena uscito con una pubblicazione sul tema della sovranità, e ci ha spiegato insomma che è molto diversa dal sovranismo per come viene inteso in Italia. E allora come conciliare un tema così importante come quello della sovranità del popolo, come dice l'articolo 1 della nostra Costituzione, con la cosmopolitica di cui parli? È precisamente per dare pieno senso all'idea di sovranità popolare, che è cosa diversa da quella nazionale. La sovranità appartiene al popolo, non necessariamente alla nazione. Questa sovranità popolare deve agire su più livelli. Noi abbiamo bisogno di rafforzarla, ad esempio, a livello locale e municipale. Troppo spesso abbiamo dei comuni che non sono in grado di portare avanti delle politiche a beneficio dei propri cittadini perché intervengono dei livelli di governo superiore senza alcuna necessità di farlo. Abbiamo quindi bisogno di ampliare la sovranità nella politica di prossimità. Qui Bologna ha anche un'esperienza interessante con coalizione civica, con un civismo anche in altri partiti sempre molto, molto attivo e molto importante. E abbiamo bisogno di creare uno spazio di sovranità democratica popolare a livello transnazionale, quindi di riuscire a costituire l'Europa in uno spazio politico democratico che possa restituire il controllo sulle grandi sfide del futuro a tutti quanti noi. La sovranità non è qualcosa che si misura come fosse il prosciutto, non c'è una questione di cedere sovranità all'Europa, di dare traietti di sovranità all'Europa in cambio di qualche politica fiscale. Ci sono delle sfide dinanzi che lo Stato nazionale non riesce ad affrontare, su cui lo Stato nazionale non è più sovrano. Non si possono trasformare i sistemi tecnologici, governare l'automazione a favore dei molti, uscire dallo scacco di grandi multinazionali che controllano i nostri pensieri attraverso i big data. Non si possono chiudere i paradisi fiscali a livello transnazionale che permettono a centinaia di multinazionali di pagare una tassazione assolutamente irrisoria rispetto a quella delle nostre piccole e medie imprese. Non si può curare un clima malato e un pianeta che ci sta cacciando fuori dall'orbita terrestre se non riusciamo a immaginare delle forme politiche oltre i confini nazionali. E riuscire a farlo all'interno dello spazio europeo, riuscire ad avere una politica europea fiscale, economica, ambientale, del lavoro, uno statuto europeo dei lavoratori ad esempio, ambiziosa, è precisamente ciò che può restituire sovranità a tutta quanta la cittadinanza, può restituire radicalità al pensiero, può restituire utopia alla nostra politica. A scala europea molto diventa possibile rispetto all'avanspettacolo inconcludente a cui si è ridotta la nostra politichetta nazionale. Tu hai citato una parola chiave che è utopia, infatti ti volevo chiedere se, come dire, stanti i rapporti di forza attuali, no? L'emergere dell'estrema destra in Europa, oppure la forza comunque dei partiti e delle correnti liberiste, e questa utopia, come dire, ha una strada lunga da fare, o vedi qualche possibilità che ci sia qualche fenomeno che inverta questi rapporti di forza? Io penso che il sistema che per semplificare possiamo chiamare capitalismo finanziario, capitalismo neoliberale, il sistema per intenderci che ha portato alla grande crisi del 2008, quel sistema credo che sia in bancarotta economica e morale e stia morendo dinanzi ai nostri occhi. Quindi utopico nel senso negativo del termine è pensare che tutto possa restare così com'è. Questo non avverrà ed è semplice follia, neanche utopia immaginarlo. E il rischio però è quella di una nuova combinazione. Io credo che il nazionalismo emergente e ciò che rimane di questo neoliberismo sempre più incattivito rischino in realtà di combinarsi e di allearsi, come già accadde in Italia, tra l'altro, negli anni 20, quando il capitale liberale, il capitale industriale sostenne il fascismo per difendere i propri interessi contro le rivendicazioni operaie. Quello che noi vediamo accadere in paesi come il Brasile, come gli Stati Uniti, quello che vediamo nella xenofobia della flat tax di Salvini è in realtà un combinato di una politica economica a favore dei pochi, dei più ricchi, dei più privilegiati, e un utilizzo del nazionalismo per mantenere la pace sociale e ridirezionare la rabbia che scaturisce un sistema politico ed economico in bancarotta, non verso l'alto ma verso il basso, verso l'ultimo, verso chi arriva sulle nostre coste in cerca di banalmente sopravvivere. E quindi ecco, di fronte a questa combinazione nazional neoliberista che rischiamo di trovarci fra le mani, di fronte a una inutile, folle continuità di uno status quo che non regge più, abbiamo la necessità di mettere in campo una visione forte, che deve partire da una visione di trasformazione di un sistema economico che sta distruggendo il nostro pianeta e distruggendo le nostre vite. Bisogna andare oltre questa fase di capitalismo neoliberale, bisogna ridistribuire la ricchezza, bisogna immaginare una transizione ecologica che possa cambiare il nostro modello produttivo, renderlo compatibile con il pianeta. Dobbiamo arginare i flussi di capitale che permettono appunto uno scandalo di proporzioni epiche come il sistema dei paradisi fiscali. Insomma, bisogna immaginare tutta quell'utopia concreta che inizia a farsi strada. Basti pensare agli Stati Uniti con il Green New Deal di Alexandria Ocasio-Cortez, una gigantesca trasformazione economica nel paese più chiaramente identificato con il capitalismo neoliberale. Se lo riescono a fare negli Stati Uniti, con un po' di coraggio e di forza, forse ci riusciamo anche qui da noi. Io Lorenzo ti ringrazio perché insomma sono spunti molto interessanti, quindi invito da un lato gli ascoltatori a comprare il tuo libro La tua patria, il mondo intero, edito dalla Terza, dall'altro venire oggi pomeriggio alle 17 in Strada Maggiore 45 alla presentazione insieme a Romano Prodi e Caterina Di Fazio. Grazie mille. Grazie mille a voi, buona giornata.